Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Tu sei bravo. Ma che bravo. Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. Hey babe, what's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. You fill my cup, babe. That's sure. Quello che è diminuito in questi due anni sono le copie del Fatto Quotidiano, non i posti di lavoro travaglio. Perché i posti di lavoro, io sono un fedele lettore. Ti manderò i dati una alla volta. You got my soul. Travaglio, sono furbi, travaglio, sono qui, qui conduco io, un attimo. Diamonds from the mine, that's all right. It'll buy some time. Bisognerebbe anche dire abbiamo sbagliato qualcosa, a meno che lui non si senta così Fonzi. Sapete che Fonzi non riusciva a dire ho sbagliato, diceva ho sb e poi si fermava. Cioè qualcosa sarà sbagliato se abbiamo speso 30 miliardi per arrivare alla crisi. Il Presidente del Consiglio è sempre lì, Travaglio, guardate. Mi guarda, ma no, è che non mi sono bello, non sono bello, mi deconcentro. È come mi... Io non so se faccio Fonzi io, però le suggerirei di non fare Ralph Malfley, caro direttore. Cerchiamo di essere chiari, Ralph Malfley è un altro personaggio. Sì, beh, ci mancherebbe. No, perché so su bene. Questo abbiamo una cultura simile. Hey babe, what's in your eyes? Stralci del grande duello. Ieri effettivamente non era male, eh? 8:30 da Lily Gruber, Marco Travaglio e Matteo Renzi. E c'è da dire che effettivamente anch'io continuavo a notarlo, a un certo punto Lily Gruber gli ha fatto notare, c'era Travaglio che aveva di fronte Renzi, ma quando parlava, parlava a Lily Gruber, cioè non aveva neanche il coraggio di guardarlo negli occhi, non lo guardava, cioè in modo sprezzante, tanto che Lily Gruber ha detto ma guardalo, ma rivolgiti a lui, ce l'hai lì, cioè faceva le critiche a Renzi ma guardava Lily Gruber, non lo guardava, non lo degnava neanche di uno sguardo. Insomma, adesso va bene tutto. E questo dal punto di vista della comunicazione sembrava un po' sprezzante da parte di Travaglio, un po' fastidioso. Comunque, non fare Fonzi, non fare Ralph Malf, poi in realtà si è parlato anche di cose... Dai che è Friday, è venerdì, signori! È venerdì! Allora, vabbè, hanno parlato anche poi in toni più pacati. Per la verità all'inizio hanno provato a mantenere questo passo un po' compassato, per cui non parlo io, parli tu, non mi interrompa, ha ragione, la democrazia anche ascoltare, si sono... Oh? Poi dopo un po' ovviamente i due non hanno resistito. Allora, saluto Fabri e Pippo da Tirrenia. Che vuol dire Fabri e Pippo da Tirrenia? Siete insieme ad ascoltare in questo momento? Beh, se è così, evviva. È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì! Allora, al 349-238-6666 i vostri messaggi anche WhatsApp, in audio se volete. Da lunedì prossimo torneremo a convocare anche qualcuno che ci ascolta dall'estero. Continuate a scriverci. Se ci ascoltate dall'estero, scrivete a 24mattino@radio24.it. Noi vi convocheremo in onda attorno alle 6:50. Tanto col fuso orario voi siete più fortunati, magari. Allora, Peter Bescapè lì in regia, non ti dico niente, Peter. Siamo alla vigilia, fai tu. Saluto Lorenzo Nespoli in redazione, non dico niente neanche a te, comportati bene domani. Allora, voglio subito convocare, due belle signore a cui fare il baciamano oggi, anche il mio baciamano, giunga a Chiara Geloni, buongiorno. Buongiorno, ma che bello. Oh, che bello, che bello. Il mio baciamano giunga anche a Carla Rocchi, presidente buongiorno. Nazionale dell'EMPA, eccola. Buongiorno cara. Cara. Buongiorno Carla. Buongiorno Chiara, facciamo, che piacere. Facciamo così, è vero che sono vicine di casa, ex vicine di casa, quanto vorrei assistere o aver assistito a una riunione condominiale con Chiara Geloni e Carla Rocchi, insomma, Carla Rocchi che difendeva il diritto dei cagnolini di passare su tutta la moquette di tutto il condominio, eccetera. Chiara Geloni un po' infastidita dalla puzza di quel Labrador. Non lo so, però magari mi immaginavo qualche lite condominiale di quelle classiche. Allora, care signore, avete visto questo baciamano? Chiara, l'hai visto questo bel baciamano di Malagò alla sindaca Raggi? Sì. Sapete cosa ha detto Malagò? Ha detto: lo faccio sempre alle donne con cui non sono in confidenza. Zac! Proprio così, pensava un bel baciamano. Vabbè. Dai, ripartiamo proprio da qui, dalle Olimpiadi. Prima però apriamo il Parlamento, così ci siamo. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Dai, chiudiamo questa questione, non se ne può più anche sui giornali. Chiara, non faranno le Olimpiadi a Roma, hai visto? Ecco, come dice qualcuno, me ne farò una ragione. Esatto, basta. No, ha un po' stufato anche l'argomento, no? Un po' sì. Se ne è parlato molto in campagna elettorale, ha vinto una sindaca che aveva sempre abbastanza detto di essere contraria, esponente di un partito che prima dall'opposizione si era espresso contro. Sinceramente, ma basta, sì, è andata così. Capisco che ognuno resta della sua opinione, qualcuno dirà che è una grande occasione persa, qualcuno dirà che invece Roma non avrebbe potuto reggere uno sforzo così, e basta. Penso che ormai nessuno cambierà idea, però i cittadini si sono espressi abbastanza chiaramente, perché questo è stato veramente uno dei pochissimi temi oggetto della campagna elettorale. Questo è vero, io però sono convinto che Carla Rocchi, a non vedere la sfilata lì sui Fori Imperiali, lei che abita in zona, con le bighe che passavano, con i cavalli coi pennacchi, è un po' di dispiacere magari. Ma cioè, per niente proprio. No, proprio. Primo perché io trovo le Olimpiadi una cosa, diciamo, assolutamente una cosa che suona a vuoto, nel senso tutte tutte queste bandiere, tutti questi gridolini, si stilano e si fanno i selfie, le Olimpiadi, ma insomma piacciono. Ma se devo dire la mia, e poi vi prego di riflettere, secondo me questa partita non è affatto chiusa, ecco, perché attenzione. Ieri si è sentito qualche bello spirito dire la decisione del consiglio comunale, faranno l'impossibile per portare questa cosa in consiglio e far votare. Ho capito, l'impossibile, quindi l'impossibile. Io non la darei per chiusa, anche se io la vorrei vedere chiusa, perché con tutto quello che abbiamo da fare, quello che c'è a Roma, pensare alle Olimpiadi a Roma è come pensare a una povera persona vecchia, stanca, malata che sta all'ospedale, gli vogliono mettere un fiocco in testa e fargli fare un giro della corsia. Magari così si ravviva un po'. I circenses, ma da che mondo è mondo? Ma dai, poi c'è il pane, ovviamente. Fate un giro a Roma e datevi un'idea se questa è una città che può ospitare un'Olimpiade. Non passa neanche l'autobus. Sembra, sai, quei vecchi film, i documentari bianco e nero, quando la gente prendeva la camionetta e poi tiravano sulla scaletta della camionetta. Siamo quasi a questo. Ma a Roma, non servono gli autobus agli Olimpiadi, mica c'è la corsa degli autobus. Per andare a vederle, forse la gente che vuole andare si piglia la camionetta. È una contraddizione. Quindi Carla Rocchi della teoria: prima sistemate la città, poi pensate alle Olimpiadi. Ma secondo me, prima sistemate la città. Non è che a Rio de Janeiro la città funzioni perfettamente. niente. Eppure io vorrei sapere a Rio de Janeiro le persone, gli abitanti, che cosa ne hanno cavato. Poi se mi si dice che ogni città è semplicemente un teatro per altri obiettivi, allora questo è un altro discorso, ma che la città si giovi minimamente delle Olimpiadi, non c'è una, insomma, la Grecia ha cominciato da lì la sua corsa a capofitto nel baratro, dalle Olimpiadi. Questo è vero. Quindi, vabbè, lì avevano anche altri problemi. Comunque, insomma, Malagò la chiude così la questione. Malagò, da un certo punto di vista, dice è chiusa. Renzi dice è chiusa, però Malagò ancora un po' qualche sassolino nella scarpa ce l'ha. Sentite qua. Ce l'hanno sulle responsabilità. Ovviamente si è giunta che è in consiglio comunale, perché è evidente che noi, come amministratori pubblici, siamo responsabili se qualcuno ci ha dato dei fondi e li abbiamo utilizzati. Vabbè, si assumeranno le responsabilità. Vabbè, vediamo. Ma ci manca solo che gli accollano anche altri debiti. Oggi sulla stampa ho letto addirittura questo: c'è il rischio di 2 miliardi di penale. Ma perché 2 miliardi? Ma adesso, cioè, voglio dire, 20 milioni li hanno spesi, adesso diventa 2 miliardi di penale. Non so, Chiara, tu vuoi chiedere a Roma qualcosa? Ma adesso vuoi. No, tiriamoli dentro dei soldi. Facciamoli. Mi ha messo ansia. Facciamo come la nuova legge sul cyberbullismo che hanno passato alla Camera. Mi ha messo ansia questa storia delle Olimpiadi. Chiedo 1 miliardo di risarcimento al Comune di Roma. Che cavolo. Potrei provare. Della nuova legge sul cyberbullismo. Virginia Raggi mi ha messo ansia con questa conferenza stampa, un po' con questa matriciana che gli è rimasta qua mentre Malagò lo aspettava. Chiedo 1 miliardo. Ecco, questo non è stato proprio un capolavoro di eleganza, di far aspettare. No. Persone fuori, proprio questo proprio non si fa. No, non si fa, ma si fa. No, non è per difendere la Raggi, perché assolutamente è una cosa che fastidisce molto. Però insomma penso che mezz'ora di ritardo per un appuntamento con un politico a Roma si può fare. Ma aspetta, mi interessa questa, ma si può fare, ma per cattiveria, cioè per un pizzico di una città dove, anche perché spostarsi è molto difficile, come diceva Carla, ma anche per altri motivi di abitudini inveterate, la puntualità è un'opinione abbastanza. Stava a mangiare la matriciana, stava da Dino Cucina Romana. Cioè, quello è il punto, tutto uno, tutto bello, contento. No, ma infatti non è una difesa questa della Raggi. Credo però, se posso dire, che Malagò, che è un uomo, come vedete, anche capace di qualche gesto un po' teatrale, come il baciamano, abbia drammatizzato una situazione nella quale lui voleva creare, cioè sapeva che da quell'incontro lì non sarebbe uscito niente, e ha fatto un gesto teatrale di andarsene e sbattere ma la porta. Ma sì, dai, facciamo lo streaming, una provocazione. Ma è chiaro, no? Che diciamo si sono svegliati e sapevano già che sarebbero mandati a fanculo. Ecco, detto in francese è così. E quindi ognuno ha cercato di renderla un po' più teatrale dell'altro, ecco. Però va bene. Allora, mi raccomando, ieri vi siete segnati la data, ieri avete fatto il vostro dovere da donne. Oddio, quella roba lì? Quella roba lì, tutto regolare? Quella robaccia lì. Il ministero vi ha guardate. E il ministero ieri ha detto che dovevate copulare. Ecco, diciamolo proprio in maniera. Intanto questo non ce lo facciamo certo dire dalla ministra. Vabbè, però ve l'ha ricordato, semmai una. Ma non serve, non è questo. Il fatto è che se c'è una cosa che toglie la voglia è proprio quella robaccia di campagna. Ieri secondo me era bene astenersi, cioè uno che dice il 22 settembre mi raccomando, ecco, è il modo peggiore ma la vergogna di questa roba, la vergogna di difendere una campagna per 5 minuti e poi licenziare la persona, come se una campagna potesse mai uscire dal ministero senza che il ministro l'avesse vista. Ma come si fa? Come si fa a pensare che gliel'ha fatta a sua insaputa la campagna? Infatti in questo caso è saltata una dirigente che promette vendetta. Io dico una cosa, allora, che un ministro non sapesse mi sembra un po', oppure che dica come ha detto, adesso la sentiremo, che gli hanno fatto vedere una foto diversa poi da quella in risoluzione, da quella che poi è stata stampata, insomma mi sembra un po' una scusa Però anche che non ci sia mai un responsabile. Adesso questa responsabile della comunicazione che dice prometto battaglia. Ho capito, ma finisce allora che, non, che mai nessuno è responsabile di ma nulla. Ma è responsabile il ministro, io ho imparato questo. Il responsabile è chi ha la responsabilità. Il ministro. Ma anche di una, cioè, Chiara, anche di una campagna di comunicazione del ministero. Sì, sì, certo, il responsabile è il ministro. Vorrei anche dire, aggiungere a quello che ha già detto Carla, che il governo è lì da 3 anni, quasi, no? Quindi non è che il capo della comunicazione del ministero e il ministro non lo conosce, o può essere che c'è un incapace e all'insaputa del ministro. Sì. Io non so come sia andata, ovviamente nessuno di noi lo sa, se non è uno che sta nel ministero, anche lui. Sia stata fatta una campagna con una foto che il ministro non ha visto, con una foto sì. brutta che il ministro, ma di fatto è responsabile. Quando io ero direttore della TV, ero responsabile io se di tutto. Vedeva qualcosa che sì, non andava nella TV, quello, no? È vero, quello è vero, i direttori delle testate sono responsabili di tutto quello che esce. Comunque è un responsabile politico che è il ministro, poi c'è anche un responsabile, diciamo un dirigente che naturalmente sì. però insomma la responsabilità è ultima sua. Vogliamo sentirla la Lorenzin, sentite un po'. Aveva dei tratti razzisti nel Deplian, c'hai diciamo salute e nel Deplian era oscurata, ma quelli si stavano drogando. Quelli si stavano quelli sono i dillo tu Chiara, Carla, quelli sono sono che devo dire. Ma che sono, lo dico sempre con sono i negri, ecco quelli, quelli ecco, nemmeno ecco. lo dice, nemmeno cioè, lo dice. È che quelli esatto, è che fumano e sono brutti, sono anche un po' scuri, hanno anche il ritmo nel sangue. C'è da dire che essendo il Fertility Day, forse c'era un ultimo messaggio subliminale proprio sui neri e sulla i luoghi comuni, però non lo so. No. L'imbarazzo più grande sia proprio quello di Renzi, di trovarsi al governo in queste situazioni e doverle difendere. Sì. Questa è veramente una croce, E non può fare diversamente, non su può questo, fare nient'altro. Su questo sì, la blindata ha detto non la si deve blindata. Dimettere, insomma. Sempre la Lorenzin, sempre la Lorenzin. Sempre che tutti sono bravi si trova sta patata bollente. Vabbè, sempre la Lorenzin, no, la sentiamo dai, dopo il traffico, con Chiara Geloni, con Carla Rocchi, le due condomine, tra poco. Uè, le sfile traffico. Grazie alla nostra sindaca, brava, non vogliamo le Olimpiadi. Voglio soltanto ricordare che la Grecia sta in questa situazione per i greci per quello che hanno fatto nel passato, ma le Olimpiadi hanno dato il colpo finale a un paese che non si è mai più rialzato. Milan, che strana l'Italia. Per una volta che un politico promette una cosa in campagna elettorale e dopo la fa, succede un putiferio, nessuno, tutti contro. Che la campagna era brutta e sinceramente pure per me era brutta, io ho subito detto se la campagna non piace è brutta la cambiamo, perché io mica faccio il ministro della comunicazione. L'avete cambiata sì. Ed è venuta peggio. No, che è venuta peggio lo dici tu. Beh, insomma, che è venuta peggio lo dici tu, e niente, vedi Chiara che non è convintissima dell'errore, un po' convintissima dell'errore, ma neanche della campagna, cioè non neanche la difende, no? Sì. Da peggio, vabbè, la cambiamo, no, peggio no, insomma, è una difesa un po' incerta. Ed è un po' strano che così, diciamola così, che un governo che punta così tanto sulla comunicazione, poi così spesso inciampi sulla comunicazione, no? È sì. buffo, perché lei dice io non faccio il ministro della comunicazione, ho capito, però Diciamo, è andata male questa cosa. Archiviamola fino al prossimo Fertility Day, l'anno prossimo. Sì, sono un po' incastrata da sola, sembra un po' nei guai da sola, perché nessuno le chiedeva di farla questa campagna. Questo sì. Secondo, però è il secondo scivolone su questa campagna. Prima l'ha fatta con le cartoline, poi l'ha fatta con sta roba. Ma insomma, ma voglio dire... È nata male. Si trova lì per vicende inspiegabili, sta lì, sta il ministro, ringrazi Dio e stai tranquilla, io non c'è altro da dire, tranquilla. Cioè non dovrebbe fare nulla, ma il ministro della sanità è il ministero... No, di comunicazione, voglio dire, ecco. Se non comunica, anche perché per comunicare bisogna avere qualcosa da comunicare in genere. Quindi, è un ministero che non ha molto da comunicare, se non fosse la struttura ministeriale che regge in quel ministero... se ne vedrebbero, perché quindi insomma, ecco, dico io, se si tace è meglio. È meglio. Lì, muta. Muta, occhi bassi sui dossier della sanità, qualche firma, no? E basta, e passano in fretta 5 anni senza che nessuno se ne accorga. Va bene, cara Chiara, non ti ho fatto dire niente sulla politica, sulla situazione, su Renzi, il tuo rapporto, va bene? Sul il mio rapporto? No, dai, cerca di capire il tuo rapporto con il re politico, la tua rabbia, tanto tu stai con Gotor, stai con Bersani, non sono arrabbiata. Stai con Cooperlo. Anzi, sono degli aspetti divertenti. Vabbè, insomma, lo vedi bello, bello carico. Vabbè, la ripresa non c'è tanto, i posti di lavoro sono un po' controversi, i dati, però... Però lui è carico, no? Tiene botta. Va bene, ma è il momento in cui lo so, in questo bisogna momento... Bisogna cambiare la legge elettorale, bisogna cambiare le nomine RAI, bisogna cambiare la legge sulla scuola, bisogna cambiare Jobs Act, anche se lui dice che va bene, però pare che gli italiani non se ne accorgono. Tante cose, io sono contento. Va bene, allora... ci sono tante notizie qua e là, tipo Berlusconi che fa causa, si ribella allo stipendio troppo alto da 1.400.000 euro al mese da dare alla ex moglie Veronica Lario. È tanta roba, insomma, 1.400.000 euro non ci sta Berlusconi. Ma ci sono tante altre notizie, ma so che questo è il momento che a voi manca sempre sentire la voce di un grande amico, Brunetta. E allora l'abbiamo recuperato, Brunetta del giorno, non sorridere Chiara perché t'ho beccato, lo so, stai attenta, prendi appunti, Brunetta. Ma come si fa a mettere per 3 volte la fiducia sull'Italicum, sulla legge elettorale e poi dire di punto in bianco che si può cambiarla solo per avere i voti della propria minoranza interna del PD, Bersani e compagni, che hanno detto di no? Il PD è sempre più spaccato, Renzi è sempre più solo e perderà il referendum. Eccolo là. C'è da dire che su questo Chiara Geloni la cosa drammatica è che d'accordo dalla prima all'ultima parola con Brunetta. Solo la prima. Hai messo un Brunetta che ha abbastanza ragione sul fatto delle 3 fiducie, però non è vero che Renzi la vuol cambiare per la sua minoranza, di cui non gli importa assolutamente nulla, e anzi pensa che prende proprio i voti bastonando la minoranza, quindi non è quello il problema è che glielo stanno chiedendo in tanti di cambiare l'Italia, questo meraviglioso Italicum gliel'ha chiesto Napolitano, gliel'ha chiesto un sacco di gente del PD che non è della minoranza, gliel'ha chiesto Scalfari, gliel'ha chiesto Ezio Mauro, glielo stanno consigliando tutti, lui si ostina a far finta di volerlo fare, ma in realtà non farlo. C'è tempo, il dibattito non manca, però sui giornali troverete questa cosa, vi voglio coinvolgere, dai, non fate finta di dire che quelli non ce ne frega niente, ne avete parlato per quelle ultime 48 ore varie volte, di Brad Pitt e Angelina Jolie. Chiara? Ce ne frega, Carla Rocchi me ne frega sì. Ma io dico una cosa che non ho capito, mi faceva imbestialire quando leggevo Brad Pitt, guardate dalle foto, il papà più bravo del mondo, guardate come tiene i bambini, guardate come li coccola. Adesso nel giro di 48 ore è diventato un drogato, spacciatore, ubriaco, violento, cattivo e che picchia i bambini. Ma che razza di modo? Ma chi lo ha mai conosciuto? Lo avete mai frequentato? Tu magari chiaro. Ma guarda che fa in tempo a cambiare, facciamo in tempo a cambiare idea 150.000 volte. Sì. Ma sì, magari. Ma tu Chiara l'hai mai frequentato? Che Lo difende. No, ma lo difende, è fantastico. Cioè, lo conosce. Secondo me è che posso raccontarvi tutto. Ecco, esatto. Tipo un Fertility Day, come uno incrocia Brad Pitt nel giorno del Fertility Day. Magari se si mette in mente. Ma perché in questi casi poi succedono sempre. Magari è vero, però ci sono sempre un sacco di strani spin sui giornali, ma chi se ne frega, i piccoli divorzi delle persone comuni sia in quelli dei VIP, ma saranno problemi loro, mamma mia. Comunque io vi devo salutare, Carla Rocchi, spero che nel mondo animale vada tutto a posto, ci racconterà qualcosa la prossima volta, una storiella degli animali, si prepara una bella storiella sugli animali, tipo quella del cacciatore che fu incornato proprio lì da un cervo, se non sbaglio, quando me la raccontò fu un bel momento. Dai, alla prossima, vi saluto e vi ringrazio. 1, 2, 3, adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccola, è tornata la nostra sigla storica della rassegna stampa di 24 mattino. Ci siamo, signori, è venerdì, è la 177esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, si conclude. C'è la prossima, dai, c'è la prossima, in attesa del referendum, lo so anch'io, non fate i pedanti. Agli scontrosi, non fate i tifosi, soprattutto non fate i tifosi a dirmi: ah, ma non sai niente, nel referendum, se passa il sì al referendum c'è l'abolizione delle province dalla Costituzione. Sì, lo so anch'io, dai, ho studiato un pochino per arrivare a 5 e mezzo, ho studiato. Pedanti, pesanti, tifosi. Che noia. Dai che è venerdì, dai, andiamo a leggere i giornali. Le mie lunedì, le venerdì. Per la precisione, venerdì 23 settembre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, vediamo qualche apertura. Apre sull'effetto Fed sulle borse, corrono i listini europei, questo è il titolo. Mentre la manovra e l'apertura per Repubblica, tra Unione Europea e Renzi, duello infinito, volete troppo. Questo ha detto Juncker. Il Corriere della Sera, invece, come altri giornali, riparte dalle Olimpiadi. Renzi, Olimpiade, caso chiuso. Così per il Messaggero, giochi a Roma, storia chiusa. Ieri Renzi lo ha confermato a 8:30 da Lilli Gruber. Olimpiadi, la ribellione dei sindaci è il titolo invece dell'Unità, mentre il Fatto Quotidiano, tutte le balle della banda Olimpiadi 2024. Per Avvenire invece l'attualità internazionale, bombe sulle speranze, Assad attacca gli Stati Uniti, la guerra continuerà, mentre La Stampa, su questa un'intervista al ministro della difesa Pinotti, fondi e soldati, il piano italiano per la difesa dell'Unione Europea. Queste alcune delle aperture, tra l'altro ce n'è un'altra del Manifesto che vorrei tenere qui perché parto dall'approfondimento di questa notizia. Il Manifesto trasforma il Fertility Day mettendo una foto del ministro Lorenzin e il titolo è Vattene Day. Eh sì, perché questa vicenda che si è conclusa tra mille polemiche, conclusa nel senso che ieri poi era il Fertility Day, ha portato anche a varie richieste di dimissioni proprio per il ministro Beatrice Lorenzin dopo la disastrosa campagna informativa sul Fertility Day. Ma Beatrice Lorenzin dice: molti vorrebbero il mio posto, questo è il titolo di pagina 20, risponde polemica. Anche Renzi respinge le richieste di dimissioni. Non scherziamo, risponde il Premier. La verità è che la campagna è inguardabile per come è stata realizzata. Ha sbagliato, anche lei lo ha ammesso. Il tema però è reale, la mancata crescita demografica. Ma lo hanno detto in un modo da fare alzare i capelli a Berlusconi. Questa la replica di Renzi, che però respinge le idee delle dimissioni. Ovviamente i giornali si concentrano sulle iniziative di ieri e il personaggio raccontato da Margherita De Bach è il personaggio Daniela Rodorigo, che è finita nel tritacarne mediatico, l'avvocato da 236.000 euro l'anno che gestiva la comunicazione. È la dirigente rimossa per questo dépliant ed è già rimasta senza badge, come racconta Margherita De Bacca. Anche se avesse voluto, Daniela Rodorigo ieri non sarebbe potuta entrare al Ministero della Salute. Il badge che le consentiva dal 2005 di avere libero accesso alle sedi del Dicastero le è stato ritirato la sera stessa. Lorenzin l'aveva convocata adirata nel suo studio, gli aveva chiesto ragioni di questa svista, scritto tra virgolette, e non c'è voluto molto a scoprire l'arcano, e cioè è stata mostrata una foto al ministro diversa o in una diversa risoluzione rispetto a quella che è finita stampata. Sembra che la foto incriminata sia stata mostrata infatti in una forma diversa, scrive il Corriere della Sera. E così, ecco, scaricata Rodorigo, stipendio da 236.561,20 euro lordi l'anno, laureata in legge, abilitata all'esercizio della professione, recita il curriculum. E soprattutto ieri in totale silenzio, anche l'avvocato le ha consigliato un profilo basso, ma c'è da scommettere che non si rassegnerà e difenderà in ogni sede la sua posizione per evitare il licenziamento. Va bene, il Fertility Day quest'anno l'abbiamo archiviato così. Sentite, c'è questa sentenza di cui parla Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera che fa discutere e mi ha fatto molto riflettere. Volevo girarla a voi per le stesse riflessioni. La vicenda riguarda le cosiddette baby prostitute. Vi ricordate quando a Roma è scoppiato lo scandalo dei Parioli e delle baby prostitute? E allora, un giudice a Roma ha deciso di condannare come risarcimento morale uno dei clienti di questa quindicenne romana finita in un giro di prostituzione, oltre a 2 anni di carcere, a risarcire questa ragazza comprandole 30 libri sull'identità femminile e 2 DVD e film che parlino appunto del valore delle donne nella storia. I 30 libri sull'identità femminile per risarcire la quindicenne dei Parioli. Luigi Ferrarella racconta, pagina 21, come risarcimento morale a questa quindicenne romana finita in un giro di prostituzione, non 20.000 euro, ma le poesie di Dickinson, i romanzi di Virginia Woolf, i soldi no, i volumi di Sibilla Aleramo, Oriana Fallaci, sì. La monetizzazione dei danni morali, no. Il DVD delle film suffragette o un'infarinatura della costruzione sociale del genere, sessualità tra natura e cultura, questi sì, per comprendere che il vero danno subito, vendendo il proprio corpo a 15 anni, è la svalutazione della propria identità di adolescente. È questa l'inedita sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha condannato un cliente a risarcire la ragazzina parte civile comprandole 30 libri e 2 film sulla storia e il pensiero delle donne, la letteratura femminile e gli studi di genere. È il procuratore aggiunto Maria Monteleone, sull'inchiesta del PM Cristiana Macchiusi, che ha deciso appunto così, come risarcimento morale. Vabbè, è una cosa sicuramente inedita e ve la giro per riflettere. Oh, inedita mi sembra anche la spiegazione di Luigi Angeletti, ex capo della UIL, che insieme all'attuale capo Barbagallo è sotto inchiesta, giudizio per appropriazione indebita, come raccontava qualche giorno fa Repubblica, perché sarebbe andato in una crociera a spese della UIL. Ma Angeletti si è difeso. Si è difeso, come racconta Il Giorno, con questa, permettetemi, singolare difesa. Angeletti e la crociera di lavoro. Era come stare in ritiro sulla nave. Non si può scappare. Facevamo riunioni per parlare del sindacato. Peter Bescapè sta ridendo, ma sicuramente per altri motivi. Cosa c'è? Ti hanno raccontato una barzelletta? Ah no, è questo titolo proprio, questa singolare difesa. Ma che ne so. Comunque, Fabio Luppino, pagina 11 del Giorno. Una crociera è un po' come un ritiro. Chi non ha mai abbinato le due cose? Perbacco! Una scelta frugale, monacale, essenziale, salvo che alla crociera si associino i piatti esposti full time, abbondanza, svaghi, relax. Invece no. Luigi Angeletti, ex segretario della UIL, ha vissuta con le stimmate francescane quella crociera per cui oggi si ritrova rinviata a giudizio insieme all'attuale leader della stessa organizzazione, Carmelo Barbagallo, ed altri 6 esponenti sindacali. L'accusa è appropriazione indebita, visto che la traversata, secondo i giudici, sarebbe stata pagata appunto dalla UIL. Dovevamo parlare delle nuove strategie da tenere nel rapporto col governo, ha risposto alla domanda Angeletti. I sindacati dei pensionati del pubblico impiego volevano che facessi con loro tutta la discussione necessaria, senza rinvii. E allora decidemmo di andare sulla nave. Così non si può scappare. E non è così sgradevole come andare in ritiro per una squadra di calcio. Capito? Riunioni a oltranza, sì, tra un piatto di gamberoni piuttosto che tra gli uffici un po' grigi e modesti del ministero, tra 4 mura scrostate. Insomma. Quindi Angeletti ammette la barbosità di certe riunioni, racconta il giorno, dalle quali anche lui vorrebbe scappare, ma i pensionati, saggiamente sapendolo, lo hanno incastrato su una nave, tutti lì, fermi, in prigione, prigione proprio no, ma lì, a parlare, tra un gelato, una pizza, una danza, una macarena, e però qui, in riunione perenne, in crociera, non si scappa. Vabbè, eccolo qua l'articolo invece che mi fa pensare della giornata. È un articolo sul Corriere della Sera di Ivo Caizzi, racconta la vicenda di Nelly Kroes, 75 anni, olandese, ex commissario europeo per l'agenda digitale nella commissione Barroso. Gli interessi offshore dell'ex commissaria e l'imbarazzo dell'Unione Europea. Un altro caso imbarazzante colpisce la Commissione Europea, che ha ammesso il mancato rispetto da parte della sua ex vicepresidente olandese, Nelly Kroes, che aveva l'obbligo di dichiarare il ruolo svolto nella società Offshore Mind Holdings, rivelata da un'inchiesta Bahamas Leaks. Notate le località, Bahamas, offshore, ex commissaria europea, che non ha dichiarato il suo ruolo. E vabbè, coloro che poi stabiliscono le rigorose regole per tutti noi. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il tribune dell'informazione. Vabbè, caro ascoltatore, mi becco pure questo. Allora, mandate le vostre sigle al 349-238-6666 via WhatsApp in audio. Ale, dai, le Olimpiadi. Ancora qualche giornale apre su questo, dopo il no di Virginia Raggi, dopo la brutta battuta incassata da Malagò, che però ieri ha incrociato in un altro impegno istituzionale la stessa sindaco di Roma. E c'è questa foto del baciamano, no? Del baciamano di Malagò a Virginia Raggi. In realtà poi Malagò ha dato una piccola stoccatina, perché ha detto: il baciamano, sì, io lo faccio sempre, è un fatto di educazione, con le donne con cui non sono in confidenza faccio così, Track, non sono in confidenza. Va bene, Malagò, il presidente del CONI. Tra l'altro Sergio Rizzo fa notare che c'è questa manfrina del referendum, ma come il referendum? Adesso che c'è stato il no, con anche un finale teatrale, Malagò che attende, poi sbatte la porta, il sindaco che intanto si stava a fare una matriciana, insomma, un finale davvero un po' da commedia, da operetta. Sergio Rizzo dice: adesso tutti che parlano del referendum, una volta che non si può più fare nulla, siccome è nella natura umana pigliarsi a qualunque cosa quando tutto sembra perduto, ecco che quella parola prima snobbata da tutti, referendum, ha preso a correre di bocca in bocca. Così Sergio Rizzo, pagina 5. Malagò risponde: andava fatto prima, ma non abbiamo problemi a confrontarci anche ora. anche perché sappiamo che i numeri sono a nostro favore. Allora non si capisce, scrive Sergio Rizzo, perché quando c'era il presidente del CONI abbia fatto la guerra al referendum proposto dal segretario dei radicali, Riccardo Maggi, arrivando a presentare un ricorso al TAR del Lazio. Ma non è stato l'unico. Anche alcuni del 5 Stelle, prima, si ricorda per esempio Di Maio quando andò da Lille Gruber il 15 dicembre a 8:30, disse «sosterremo la candidatura se vinceremo a Roma». Il 25 febbraio Virginia Raggi annuncia «vogliamo che siano i romani a decidere». E allora tutti che parlavano del referendum, e poi invece è finita così e il referendum non si è mai visto. Parla sempre sul Corriere della Sera, intervistato da Dino Martirano, Luca Cordero di Montezemolo, presidente del comitato promotore dei giochi di Roma 2024. «Non si può solo dire no per evitare le responsabilità. Raggi pare telecomandata», così dice Montezemolo. Intanto da Londra, dove sono andato per la candidatura olimpica, e da Monaco ho assistito a un comportamento sconcertante e umiliante per chi ha l'onere e l'onore di amministrare la capitale. Ho avuto l'impressione che la sindaca abbia parlato sotto dittatura, come una macchina telecomandata, sicuramente in modo non rispettoso delle istituzioni sportive costrette a fare anche anticamera. Ho il massimo rispetto delle istituzioni, chi ha vinto le elezioni ha il dovere di decidere, ma non posso condividere nei modi, nella sostanza, questa decisione che suona come una rinuncia a sfide per il futuro. Questo dice Montezemolo, che poi la domanda sul referendum dice è tardi, quella strada andava imboccata prima. Per la verità il Fatto Quotidiano oggi mette un po' in croce i conti di questi famosi soldi spesi che adesso qualcuno vorrebbe anche chiedere indietro al Comune di Roma. Tutte le balle della banda Olimpiadi 2024. Pagina 2, Andrea Managò, che assomiglia a Malagò, ma invece è Managò, firma del Fatto Quotidiano. Il presidente del CONI rinuncia a qualsiasi piano B, e però, dice il Fatto Quotidiano, il comitato ha speso per ora 2 milioni e arriverà a spendere 10 milioni. Gran parte di questi sono stati spesi per lo staff e le consulenze, e non è vero che hanno già speso 20 milioni, come si dice. Eccole qui per il Fatto Quotidiano tutte le balle della banda Olimpiadi 2024. Certo, fa un po' specie leggere su Repubblica, pagina 11, che c'è chi, come Parigi, che ora si candida ufficialmente insieme a Los Angeles, potrebbe essere Parigi scelta per 2024. A Parigi invece, ecco come hanno convinto il sindaco Anne Hidalgo, che era la prima contraria alle Olimpiadi, aveva detto: viste le difficoltà finanziarie non mi sembra ragionevole la candidatura. Poi, con dati alla mano e con pazienza, l'abbiamo convinta, racconta Bernard Lapassé, 68 anni, capo del comitato per Parigi 2024. È riuscito laddove Malagò ha fallito con la Raggi. Come è riuscito, scrive Repubblica, offrendo un progetto low cost, a basso impatto ambientale, promettendo di riqualificare una delle banlieue più terribili del paese, la Seine-Saint-Denis, il famigerato dipartimento 93 dove è stato ambientato il film L'Odio. E allora Hidalgo non ha parlato di lobby del cemento, ma ha imposto un progetto sobrio con investimento pubblico non superiore a 1,5 miliardi di euro e quasi totalità degli impianti già previsti, il 70%, altri invece solo la piscina da costruire, oltre all'impianto provvisorio per l'equitazione. L'altra parola chiave del progetto voluto dal sindaco è stata riqualificazione urbana. E allora, convincendola, si è convinta e la candidatura c'è. Rimaniamo su Roma, attenzione, perché si profila, questa volta dal punto di vista politico, il nome dell'assessore al bilancio. Secondo i rumors su tutti i giornali, Virginia Raggi sarebbe orientata a scegliere un magistrato in pensione della Corte dei Conti. Si tratta di Salvatore Tutino, esperto di evasione fiscale, già dirigente del Ministero dell'Economia, ha guidato il Servizio Centrale degli Ispettori Tributari, il SECIT. Però i giornali dicono c'è questo rumor su questo nome, ma già le polemiche, perché alcuni del 5 Stelle, in particolare Carla Ruocco e Laura Castelli, in passato avevano definito Tutino, come altri magistrati, appartenenti a una casta. Si riferisce a una vecchia nomina del governo proprio per Tutino, quando denunciano il 5 Stelle si sforò il tetto di 240.000 euro garantendo a lui uno stipendio di 300.000 euro. E dunque allora il nuovo assessore può creare a Roma altre tensioni. L'idea di mettere Tutino al bilancio, Ruocco del 5 Stelle lo criticò dicendo è della casta. Così racconta il Corriere della Sera, ma questo nome c'è un po' su tutti i giornali. Allora, invece, noi e l'Europa, noi e l'Unione Europea, sono schermaglie continue. C'è la manovra di stabilità che va preparata, la legge di stabilità, e l'Italia, per riassumere molto sinteticamente, chiede più flessibilità. Il Presidente della Commissione Europea, Juncker, ieri ha già detto l'Italia ha già avuto flessibilità per 19 miliardi, come racconta Beda Romano a pagina 5 del Sole 24 Ore. Dunque il patto flessibile per Juncker ha ridotto i deficit. E però l'Italia non può tirare troppo la corda. Ecco che su Repubblica si racconta allora che la manovra rischia di salire di altri 5 miliardi per non toccare l'IVA, le famose clausole di salvaguardia che non devono scattare, altrimenti aumenta l'IVA. Ma ieri Renzi ha ancora ribadito ce la faremo e non scatterà nessun aumento. Ma sa tutto, tutto, e ci svela in grandissima anteprima Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno, ma certo, ma come no? Posso prima però svelare che bisogna fare gli auguri a Peter Descafé per la giornata di domani? Ah sì, facciamoli, facciamoli. Perché domani si sposa, quindi mi sembra giusto fargli gli auguri. Bravo, oh, invece Alpino, se vuoi proprio tornare a queste vicende di Unione Europea, guarda, ti segnalo questa uscita del Presidente della Commissione che ha detto che abbiamo già avuto ben troppa flessibilità, già sì, 19 miliardi, quindi... Insomma, già basta così, non ne dobbiamo chiedere altro. Molto si capirà tra lunedì e martedì, caro Milan, perché arriva la NADEF. La NADEF, non sai niente. Vabbè, la nota di aggiornamento al documento di programmazione economica finanziaria, cioè insomma si fanno i conti e così da lì si vede come sarà la manovra e quanto dei tuoi due urini dovrai cortesemente consegnare. Si parla di spending review, ma riferiamo tutto oggi sul Sole 24 Ore, no, non c'è problema, puoi andare a vedere tutti i dettagli. Oh, così come anche ti segnalo invece che oggi dovrebbe essere varato il primo passo per Casa Italia, il piano, sai, di messa in sicurezza, sì, certo, per le case in zone sismiche, e anche poi completato il programma di aiuti per le popolazioni invece colpite dal terremoto del 24 agosto. Oh, ti voglio anche dire, stiamo invece aspettando, ma non sappiamo se arriveranno oggi, i correttivi allo Jobacchette, giusto? Sì, quello di Angelino, sì. La riforma del lavoro, insomma. Sono correttivi importanti perché, tra l'altro, si deve intervenire sul monitoraggio dei voucher, sul sostegno per quanto riguarda la CIGS o chi rimane senza sussidi. Bene, ne riferiamo compiutamente in norme e tributi, noi lo diciamo compiutamente, tu lo leggerai avidamente, religiosamente, scusa, sei distratto perché capisco che è venerdì, poi insomma il clima di festa anche per Peter distraendo. È così. Molto altro ti vorrei dire, ma ti segnalo soprattutto che siamo oramai verso la stesura finale dei nuovi documenti OIC, l'organismo italiano di contabilità. Fai questa espressione incredula, però, però se leggerai norme e tributi capirai che è una cosa molto importante per tutti coloro che si occupano di bilanci. Ti segnalo anche che oggi, essendo venerdì, sono le pagine di Moda 24 particolarmente ricche perché c'è la Fashion Week, che poi sarebbe insomma settimana della moda, quindi puoi leggerle come vuoi, insomma, come più ti aggrada, liberamente, diciamo così. Liberamente. Inoltre, prima di farti naturalmente tanti cari auguri per la domenica calcistica. Grazie. Non hai ricambiato questa volta? No, ma guarda, io sono già pronto. Inter Bologna 2-1. Ah, rilanci col la gufata del pronostico. 2-1. Va bene, in ultimo allora, articolo da meditazione. Pagina 19, Beda Romano e Attilio Geroni, sulla uscita del presidente ungherese Orban, che ha detto ma no, noi gli immigrati li mettiamo tutti su un'isola e li lasciamo lì. Va bene, questo direi non posso dire altro, dico solo un articolo da meditazione, anzi una pagina da meditazione. E tutto ciò premesso, buona domenica, ma soprattutto Traffico! Giobacche, visto che parla sempre di lui Giobacche, e mo lo chiamo. Alessandro Milan, rende interessante anche la lettura del... No, questa non la pubblicate. Lo so, è quel satanasso di Peter Bescapè. Io non c'entro, cara ascoltatrice, guardi come me ne lavo le mani. Allora, dobbiamo parlare di immigrazione, ci sono tanti articoli sull'immigrazione e ne parleremo anche dalle 8:15. Intanto la tragedia avvenuta al largo dell'Egitto, come racconta Avvenire nello scavo a pagina 4, gettiamo le reti, peschiamo cadaveri. Questo raccontano oltre 200 i dispersi, recuperati 51 corpi con i pescatori sotto shock. Questa è l'ultima tragedia nel Mediterraneo ed è bene tenerla lì in alto, in modo da capire sempre ciò di cui parliamo, perché come ci ha detto Mauro Meazza, poi abbiamo anche delle risposte di fronte a un'Europa che effettivamente è divisa, non ha una linea comune, fa fatica a rispondere in maniera unitaria. Poi abbiamo le risposte alla Orban, premier ungherese. Sì, è vero, lì c'è il 2 ottobre, un referendum in Ungheria in cui si deve decidere sulla ripartizione delle quote, se la gente può e vuole accettare una ripartizione delle quote europee. Ma Orban ha detto questo, testuale, come ci ha detto Mauro. Le persone arrivate illegalmente dovrebbero essere rastrellate e deportate, no? Vi ricordano parole ovviamente, come dire, neanche troppo lontane nel tempo, nella memoria, nella storia. Rastrellate e deportate. Così il premier ungherese, che poi pensa a un'isola, oppure la costa del Nord Africa, dove dovrebbero essere mandati. Secondo l'uomo politico, la sicurezza e i rifornimenti della località dovrebbero essere garantiti dalla stessa Unione nel suo interesse. Ma questo rastrellate e deportate è abbastanza emblematico. Tra l'altro, sull'immigrazione ci sono tanti articoli interessanti oggi. Vi segnalo il secolo XIX. In attesa di asilo c'è un esercito di fantasmi a carico dello Stato. Questo è il tema che abbiamo sempre sottolineato, e cioè fanno le domande di richiesta d'asilo, il 60% di queste domande alla fine è bocciato in prima istanza, ma poi c'è l'appello e i giudici le riammettono quasi tutte. Questa è la stortura della giustizia italiana. Alessandro Cassinis racconta: secondo la legge, chi chiede asilo ha tempo 3 giorni per formalizzare la domanda, 6 se lo fa la polizia di frontiera, 10 in caso di afflusso straordinario. Entro un mese la commissione territoriale deve convocarlo per un colloquio e non più tardi di 3 giorni dopo deve dire se la domanda è accolta o respinta. Bastano insomma 36-43 giorni per decidere la sorte di un richiedente asilo? Naturalmente no. Le domande di asilo crescono del 62%, l'Italia è seconda dopo la Germania, i tempi previsti dal decreto 142 sono completamente saltati. Oggi è facile aspettare anche un anno solo per questa fase amministrativa e poi, dopo che magari la domanda è respinta, ci sono i ricorsi. E insomma, ci stiamo incartando in una gigantesca trappola burocratica che rischia di far esplodere conflitti sociali, intasare i tribunali, bruciare una quantità impressionante di denaro pubblico senza portare grandi benefici nemmeno alle persone che si vorrebbe aiutare. I richiedenti asilo sono 75.681 al 9 settembre e le commissioni territoriali bocciano in genere il 60% delle domande, ma nessuno dei cosiddetti diniegati viene rimpatriato. Nessuno resta nel limbo degli irregolari senza documenti. Sono aiutati dalle ONLUS che li ospitano, fanno ricorso in tribunale, hanno diritto a riavere il permesso di soggiorno e ogni ricorso costa allo Stato circa 900 euro per il primo grado e richiede non meno di 6 mesi, più spesso un anno, e così via. E Alessandro Cassinis racconta sul secolo XIX, a pagina 4, tutta questa vicenda molto molto dettagliata. Tanti articoli sugli immigrati e vabbè, ne parleremo più avanti. Oh, faccio vedere anche in diretta sul mio profilo pubblico Facebook che sono arrivate le nuove parole dello Zingarelli. 250 neologismi. Caro Lorenzo Nespoli, inquadra qui. Per esempio c'è curvy, le modelle curvy. Non è che si può dire di taglia grossa. Curvy, carvy, curvy. Poi c'è il Doodle, il logo di Google. Vabbè, poi ci sono dei termini tipo le borse pitonate. Pitonate entra nello Zingarelli. La vigoressia, la fissazione per i muscoli. Microondabile. Sai cos'è un cibo microondabile? Vabbè, ci puoi arrivare per intuito, ma sono le 7.50, se sveglio dalle 5 posso capire che va nel microonde, caro Lorenzo Nespoli. Microondabile. E trollare sì, perché hai numerosi troll su Twitter e sui social e sai cosa vuol dire. Va bene, vi racconto anche, ci sono tanti articoli ma non ce la faccio a leggere, c'è la storia di questa preside che dirige 21 scuole e 3.000 alunni sul Corriere della Sera in provincia di Cremona, 21 scuole. C'è l'ISIS che vieta di mettere le maglie del Real e del Milan. Per chi mette, giuro, è vero, l'ISIS ha fatto un avviso per chi sta nello Stato Islamico: se mettete la maglia del Milan, 80 frustate. Che io dico, magari se hai quella di Montolivo, per esempio, 80 no, però una ventina te le meriteresti. Comunque, siamo all'articolo più inutile scovato sui giornali. La carta costa, basta, le accomuno tutti. Brad Pitt non se ne può più. Ma come? Non era il papà più bravo del mondo, che adesso è alcolizzato, picchia i bambini, denunciato, l'FBI, basta, ma basta, tutti gli articoli su Brad Pitt e Angelina Jolie, basta! Ma chi se ne frega!